Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, in attesa poi di lasciare la linea alla speciale, alla diretta, e quindi che trasmetteremo alle 18, conferenza stampa del Premier, ancora Premier Enrico Letta. Molte le voci che si susseguono, avete appena ascoltato gli ultimi aggiornamenti dal nostro GR, c'è chi dice che si concluderà l'esperienza del governo, c'è chi dice che invece il Premier Letta, stando anche a alcune dichiarazioni twittate, proporrà una seconda fase, cioè chi lo chiama rimpasto, insomma, del governo, per chiedendo l'appoggio di tutti quelli che ci stanno, diciamo, come appoggio di coalizione, quindi anche in Parlamento. Noi molto più prosaicamente, mentre la politica appunto dibatte staffetta sì, staffetta no, rimpasto sì, rimpasto no, vorremmo raccontare con un esempio molto banale, ma a mio avviso molto significativo, quali sono i problemi di questo paese al di là della legge elettorale. Non che non lo sia, per carità, però è anni che sentiamo dire, prima Berlusconi, poi Monti e poi anche Letta, che bisogna affrontare, attaccare il tema della burocrazia di questo paese che soffoca le imprese. Una riforma della burocrazia sarebbe a costo zero, tranne che per i funzionari che vivono del privilegio di poter bloccare o tenere nel cassetto una pratica, ma sarebbe a costo zero per le casse dello Stato, permetterebbe alle imprese, qualunque tipo di impresa, piccola, media, grande, di operare più velocemente, di non aspettare anni per un permesso, e soprattutto magari renderebbe anche più attraente questo paese. Ma la riforma della burocrazia non si fa, perché forse perché ha costo zero, forse perché va a toccare, a mio avviso, poteri precostituiti. E citeremo un caso di scuola. Voi direte, è troppo facile paragonare l'Italia all'America, ho capito, ma da qualcuno dobbiamo prendere anche esempio. Dopodiché non c'è solo l'America, c'è anche la Spagna, c'è anche la Svizzera al centro delle polemiche, dove però ci vogliono 60 giorni per un'autorizzazione per un impianto produttivo, e non stiamo parlando di paesi che sono famosi per distruggere il loro territorio e per avere, diciamo, un insediamenti produttivi di carattere selvaggio. Parliamo di paesi più che civili, da un lato, e poi non mi sembra che questo paese possa vantare, soprattutto in alcune aree geografiche, tutto questo rispetto del territorio, nonostante la burocrazia, nonostante la pletora di leggi e di controlli. Poi anche i mercati, che hanno un po' raffreddato l'avvio della seduta, però resta l'effetto Yellen, chiamiamolo così, e quindi la nuova presidente della Federal Reserve, che ieri lo abbiamo ampiamente enfatizzato, con un atteggiamento che è diametralmente opposto a quello che la Bundesbank, la banca centrale tedesca, vorrebbe avesse la nostra banca centrale europea, ha detto che la Federal Reserve continuerà ad essere accomodante, quindi a tenere i tassi bassi, ma soprattutto a non ridurre drasticamente lo stampaggio di moneta finché la disoccupazione americana non sarà andata sotto il 6,5%. Da noi non ho mai visto una dichiarazione effettiva, concreta, né di governatore della Banca Centrale Nazionale, né, devo dire, anche di Mario Draghi, che però ha molti vincoli su questo, perché parliamo sempre di crescita per non dire occupazione. In realtà in America non c'è nessun timore nel dire che una banca centrale, una banca centrale come è la Federal Reserve, ha anche l'obbligo di guardare non solo all'inflazione, ma alla tenuta dell'economia e quindi ai posti di lavoro, perché la crescita va bene, ma soprattutto devono esserci posti di lavoro. E questo ha comunque rinvigorito tutte le borse europee. Ripeto, adesso i realizzi hanno iniziato a farsi vedere, quindi Parigi per esempio guadagna solo lo 0,60, Francoforte lo 0,70, Londra invariata, l'America è leggermente negativa e questo non ha aiutato. Milano resta tra le migliori in assoluto, più 1,20%, di nuovo forte la Popolare Emilia Romagna, che guadagna il 5,10%, ha rassicurato sul fatto che non vi sarà l'aumento di capitale. Bene Pirelli, più 3,91%, questo per via anche dei conti Michelin. La Pop Milano, che è una concorrente, ma di solito gli investitori poi guardano ai parallelismi possibili, dicevo, Pop Milano più 3,32%, Azimut più 2,80% come CNH Industrial, Generali più 2,11%, UX più 2% come Unicredit, Saipem più 1,80%, Finmeccanica più 1,70% come Tods, Atlantia più 1,5% come Xor e Unipol. Sai chi perde? Realizzi sul Banco Popolare dopo la fiammata di ieri meno 0,80%, G-Tech meno 0,80%, A2A meno 0,40%, Fiat è positiva nonostante l'abbassamento di voto da parte di Moody's sul suo debito, guadagna l'1% in questo momento. Allora, 349-238-6666 come sempre è il numero per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Prima di iniziare a polemizzare, non ho detto che la legge elettorale non sia importante, ho detto che è importantissima, dico semplicemente che se la politica italiana avesse dedicato tutto il tempo che ha dedicato per una legge elettorale che ancora non c'è e l'avesse dedicato anche per lo snellimento burocratico del paese, per evitare distorsioni classiche per cui in questo paese se un imprenditore investe i suoi soldi nel capannone, in macchinari, nell'innovazione di processo, di prodotto, oppure si compra una villa, uno yacht o li spende per altre amenità, il fisco non fa nessuna differenza. Se questo vi sembra normale, ragioniamone. Ecco perché si parla anche di riforma fiscale oltre che di abbassamento della pressione fiscale in busta paga. Ecco, se la politica avesse dedicato un po' di tempo in più per una vera riforma burocratica, forse tratteremo ancora della legge elettorale, ma non dovremmo fare l'approfondimento che stiamo per fare fra pochi minuti. Le altre notizie in breve. Nuova mossa oggi di Bruxelles contro la Svizzera, fra un po' la invadiamo la Svizzera dopo il sì al referendum anti-immigrati. Infatti l'Unione Europea ha congelato un altro negoziato, quello sul grande accordo quadro sul trattato istituzionale con Berna. Nella riunione preparatoria, che era dell'incontro settimanale di 28 ambasciatori in programma domani, è stato infatti deciso di togliere dall'agenda l'approvazione del mandato negoziale della Commissione. E i 28 infatti hanno ritenuto che non fosse opportuno dare alla Commissione il mandato per negoziare un accordo con la Svizzera, visto che non sono chiare le intenzioni della Svizzera. E da quello che capiamo adesso il ministro degli esteri svizzero dovrà iniziare tutto un giro di capitali europee per spiegare esattamente l'impatto del voto referendario, come verrà recepito dalla legge svizzera, che conseguenze avrà, ma insomma la tensione è ai massimi tra l'Unione Europea e la Svizzera. In Germania il governo conferma una crescita per il 2014 più forte del previsto dell'1,8% e il ministro dell'economia Sigmar Gabriel rivede al rialzo anche le stime sul 2015 più 2%. E poi sempre il ministero dell'economia tedesco fa sapere che in Germania vi sarà un nuovo record nell'occupazione. Più 240.000 posti, cioè 240.000 posti in più verranno creati nel 2014. Oh, sarà forse per questo che la Germania non sente bisogno di una banca centrale europea che si occupi anche dell'occupazione, perché lei il problema non ce l'ha. Va bene così, brava la Germania, però decidiamo, non è che ciò che è bene per la Germania sia bene per il resto d'Europa, o se la Germania non ha un problema non ce l'ha il resto d'Europa. Allora, la borsa italiana si è stabilmente sopra i 20.000 punti, a chi me lo chiede, 20.132 punti, ma soprattutto lo spread è in calo a 197 punti, per la prima volta dal 2006. Tasso di riferimento del BTP a 10 anni scende infatti al 3,67%. Ora immagino già la riflessione, l'obiezione, ma come l'Italia che nel mezzo di una crisi di governo e con dati economici tutt'altro che esaltanti per il 2014, una marginale e piccola ripresa, vede lo spread scendere. In realtà questo è un effetto che vediamo su tutti, ma anche sulla Spagna, dovuto non alla situazione italiana, ma ripeto, è dovuto più alle parole della numero uno della Federal Reserve, Yellen, e cioè il fatto che l'America non andrà a ridurre in maniera drastica la liquidità lascia gli investitori liberi di continuare i loro investimenti. Abbiamo già visto cosa capitò due settimane fa, quando invece si ritenne che l'America avrebbe iniziato in maniera più brutale a ridurre la liquidità e lo stampaggio di dollari, cosa capitò per esempio alle valute dei paesi emergenti, lira turca, rand sudafricano. Quindi questo è un effetto che nulla a che vedere, devo dire che gli investitori guardano molto poco in questo momento la situazione politica italiana intesa come staffetta, l'impasto o altro. Il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni in un'audizione al Senato oggi stima in 8, forse 9 miliardi di euro quelle che potranno essere i benefici finanziari per lo Stato italiano dalla prima fase delle privatizzazioni, una stima complessiva ritenuta attendibile. E poi continua Saccomanni: in Italia c'è domanda di investimenti di capitale che va soddisfatta, da essa dipende la possibilità di competere e di creare posti di lavoro. E poi è continuato: la finanza deve sostenere gli imprenditori che hanno idee e capacità progettuali con i capitali necessari a crescere. Ma dico, se fosse così facile ci saremmo aspettati magari in questi mesi anche qualche dichiarazione più forte del ministro Saccomanni, che viene dalla Banca d'Italia, sull'atteggiamento delle banche italiane, perché dire banalmente la finanza deve sostenere gli imprenditori che hanno idee e capacità progettuali con i capitali necessari a crescere è una frase così. Poi la giustificazione su perché si va a privatizzare alcune aziende pubbliche, la più importante dei motivi è sicuramente l'esigenza di ridurre il debito pubblico. Anche qua ci eravamo arrivati da soli. Dalle privatizzazioni, ha continuato Saccomanni, vi saranno importi modesti rispetto al debito, ma sarà un segnale importante per l'Unione Europea. Tra l'altro, per quello che riguarda le privatizzazioni, Saccomanni non ha escluso la possibilità di collocare altre quote sia delle Poste Italiane che di ENAV, che è l'ente che regola il traffico aereo. E ascoltiamo un passaggio dell'intervento del ministro appunto in audizione. È vero, si tratta di importi modesti relativamente all'importo del debito pubblico, però io credo che vada comunque dato un segnale all'Europa e anche a noi stessi, che stiamo cercando di trovare modi per ridurre il debito pubblico diversi da quelli che sono appunto il taglio della spesa pubblica o l'aumento dell'imposizione. Cioè, noi già con la legge finanziaria abbiamo, come dire, cercato di dare un segnale in questa direzione, ma i criteri che abbiamo concordato a livello europeo di mantenimento del disavanzo nei limiti del 3%, ma anche di portare avanti un percorso di riduzione graduale del debito pubblico, ci impongono di fare qualche cosa anche sul fronte del debito, diciamo in via diretta anziché attraverso la politica del bilancio. Questo ci consentirà, secondo me, di discutere in sede europea l'eventuale maggiore flessibilità per quanto riguarda i tempi per la riduzione del debito. Allora, sì, mi dispiace, ma io continuo a ribadire che è forse anche uno dei problemi di questo governo che sia troppo timido il ministro Saccomanni, vogliamo dire così? Cioè, il ministro dell'economia deve avere in questa situazione una maggior capacità di presa, ma voglio dire a chi critica le mie affermazioni, ma insomma, dire che la finanza deve sostenere gli imprenditori che hanno idee e capacità progettuali, che c'è una domanda di investimenti di capitale che esiste e va soddisfatta, che cosa vuol dire? Tu sei ministro dell'economia, non me lo devi raccontare, devi operare per questo. Fai moral suasion con le banche, convoca i principali banchieri, convoca l'ABI, mettila assieme ai soggetti produttivi del paese, sindacati e imprese, non so, fai qualcosa, perché siamo veramente all'accademia, ma fine a se stessa. Poi una risposta anche chi dice: ma il problema secondo lei è la Germania, o chi dice: lei non si ricorda che la BCE ha un mandato diverso dalla Federal Reserve. Allora, io non ho detto che il problema sia solo la Germania, ho detto che nella gestione di questa Europa la Germania ha delle grossissime responsabilità. Poi noi abbiamo le nostre responsabilità, i nostri compiti da fare a casa, Ma si può fare un'analisi più dettagliata che non Guelfi o Ghibellini, bianco, nero, Milano, Inter, Juve o Toro, no? Allora, ci sono responsabilità a livello europeo per come abbiamo gestito una politica di sola austerità e tasse ragionieristiche, responsabilità nazionali di cui parliamo ogni giorno. E so benissimo che la BCE ha un mandato diverso, ma non è che l'ha scritto Mosè il mandato della BCE, si può cambiare. È un mandato disegnato apposta sulla Bundesbank, ti devi occupare solo di inflazione e solo di stabilità dei prezzi. Magari con quello che è successo, è cambiato il mondo, uno può anche immaginare che cambi qualcosa nella Banca Centrale Europea, e Mario Draghi ha cercato di farlo in maniera, diciamo, con uno slalom, e non a caso poi la Corte Costituzionale tedesca ha dovuto arrendersi e rimandare tutto alla Corte di Giustizia Europea, perché c'è stato anche un ricorso in Germania contro una BCE che stava uscendo dal suo mandato scritto nel deserto sulle tavole della legge. Va bene, intanto non emergono elementi di preoccupazione sulla tenuta del sistema previdenziale italiano, e quindi INPS, ma non solo, lo ha detto il ministro del lavoro Giovannini al Question Time della Camera. Vittorio Conti è stato nominato nuovo commissario dell'INPS. Allora, sarà, non ci sono problemi sull'INPS, non capisco però perché il governo debba nominare un commissario, forse non ha avuto la forza politica per scegliere un nome al posto di Mastrapasqua, perché insomma per sei mesi. Lui è un economista, mi riferisco a Vittorio Conti, ha 71 anni, ha lavorato prima nell'ufficio studi di Banca d'Italia, poi in Comit, dove è stato direttore centrale, infine in Banca Intesa. Apprezzamento comunque da parte dei sindacati, chi rappresenta molto il pubblico impiego e anche una componente importante di pensionati, lo dico perché stiamo parlando di INPS, mi riferisco alla CISL. Raffaele Bonanni ha così commentato al microfono del nostro Vincenzo Miglietta la nomina di Vittorio Conti come nuovo commissario dell'INPS. Un manager di esperienza, ma detto questo abbiamo chiesto al governo che al commissario tecnico bisogna affiancare una proposta e una decisione di nuova governance che veda le parti sociali almeno avere potere di verifica sul bilancio. Voglio ricordare che tutti i paesi europei hanno le parti sociali un ruolo preminente nel governo degli enti previdenziali. A noi interessa il potere di verifica sul bilancio. Allora, mentre il ministro allo sviluppo economico Flavio Zanonato, a me ogni tanto Zanonato mi sembra Forrest Gump, lo dico con massimo rispetto, dice di essere moderatamente ottimista su Electrolux, non capisco, cioè. E poi ancora dice esiste una legge sui contratti di solidarietà ed è prevista una decontribuzione parziale. Si tratta di operazioni finanziate da un fondo occupazione, ma al momento non ci sono risorse. Ma fate sentire sto Zanonato, per favore. Esiste una legge che è la 510 del 96, che all'articolo 6 parla dei contratti di solidarietà e della decontribuzione. Questa decontribuzione è una decontribuzione parziale, non è che si tolgono completamente. Mi pare complessivamente arrivi al 25%. È uno strumento che interviene parzialmente nel ridurre questi oneri. Come viene finanziata questa decontribuzione? Con il fondo occupazione, non c'è un apposito fondo, c'è il fondo occupazione. Nel fondo occupazione non ci sono risorse per fare in questo momento questo tipo di operazione. Abbiamo avuto anche in queste ore, se ne è occupata la dottoressa Ludovica Agro, che è qui con me, continui confronti con il Ministero del Lavoro, che è titolare di questo tipo di possibilità, ed è molto difficile trovare risorse in questa direzione. Allora, per Zanonato di Padova, glielo dico anche in diletto, non ho capito niente, non ho capito nulla, cioè non ci sono le risorse, ci sarebbero gli sgravi ma non ci sono le risorse, però lei è moderatamente ottimista, boh. Allora, non voglio occuparmi, anche se ci sono storie, ma insomma, visto che parlavamo dell'INPS, Mastra Pasqua adesso non c'è più, però ha gestito l'INPS per molti anni, immagino che saprà rispondere della vicenda per cui l'INPS ha speso 500.000 di euro per ristrutturare un barcone sul Tevere, più un altro 500.000 in 4 anni per la vigilanza del natante, manco fosse il Nautilus, quindi 1.000.000 di euro ha speso l'INPS per creare con questo barcone un circolo di dopolavoro galleggiante che non è mai entrato, non è mai stato aperto in realtà. Ristrutturato nel 2010, l'apertura è stata rinviata di anno in anno per cavilli burocratici, costringendo l'ente a pagare 20.000 euro al mese per la sorveglianza 24 ore su 24. Io so che alcuni di voi avrebbero un'idea di cosa fare di questo barcone, di chi farci salire, di mollare gli ormeggi, però il barcone giace ancora attraccato sul lungo Tevere delle Armi, nel centro di Roma. È vittima di furti, atti vandalici e dei topi, che sono gli unici frequentatori dell'edificio. 1.000.000 di euro. Però Mastra Pasqua, lei di questo poi ci saprà spiegare, risponderà in qualche modo, no? Così come potrei dilettarvi con quanto costano i flaconi di disinfettante per sale operatorie a Foggia, dove evidentemente c'è una nuova situazione da premio Nobel, perché di solito vengono pagati circa 60 euro l'uno, ma la ASL di Foggia li pagava 1.920 euro l'uno. Ma che cosa contenevano? L'elisir della giovinezza. Sono coinvolti 5 dipendenti dell'azienda sanitaria e 2 imprenditori, e la truffa l'ha scoperta la Guardia di Finanza. Hanno sequestrato, pensate, beni per 1.600.000 euro, equivalenti per fortuna al danno cagionato alla collettività. Ma invece noi che ci occupiamo di cose misere, piccole, per esempio come si fa a fare impresa in questo paese, vorremmo raccontarvi una storia. Saluto allora, per averci raggiunto in collegamento, Enzo Mularoni, che è amministratore delegato di Del Conca, che vuol dire uno dei principali gruppi nella produzione di ceramiche italiane. 220.000.000 di fatturato avete fatto l'anno scorso e un 75% di export. Buonasera. Buonasera a tutti. Le chiedo ancora qualche minuto di pazienza perché ho il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Poi lei ci racconta se esistono delle differenze di carattere burocratico tra avviare un'attività in Italia o avviare un'attività in America. Forse esistono, chi lo sa? minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. C'è Gianluca Rana, il figlio del mitico fondatore Giovanni della Rana, che per aprire uno stabilimento vicino a Chicago per produrre i tortellini ci mette 15 giorni per la licenza edilizia, 48 ore per una variante al progetto, 10 mesi per costruire lo stabilimento. E c'è lo stesso Gianluca Rana, che non è cambiato nel frattempo, che aspetta invece 7 anni per una variante nello stabilimento che è a Verona. Volete sapere perché? 7 anni per tanti motivi, ma anche perché il funzionario comunale del comune di Verona, che doveva fare il sopralluogo finale, quello per dire ok, vai, fai la modifica, si è fatto aspettare 3 settimane. Non è che avesse l'amante, mancava l'auto di servizio, non poteva usare l'autobus o il taxi perché non gliel'avrebbero rimborsati, e non poteva accettare un'auto della Rana perché non sta bene fare così, perché gli hanno anche detto ti veniamo a prendere noi, ti diamo una bicicletta. No, è arrivato solo quando i colleghi gli hanno lasciato l'auto di servizio. 3 settimane per l'autorizzazione finale. Ma c'è anche la Vinaville, un marchio storico fondato da Giorgio Squinzi, che è anche presidente di Confindustria ma appartiene al gruppo Mapei. Allora, 2 anni e 10 mesi in Italia per avere la valutazione di impatto ambientale per una nuova linea produttiva a Ravenna. Sapete quanto ci vuole nel Canton Ticino? 60 giorni, ma lì è noto che sono degli speculatori selvaggi che non rispettano l'ambiente. Mularoni, buonasera di nuovo. Lei appunto ha un gruppo che fattura 220.000.000 di euro, esporta il 75%, è uno dei leader nel settore delle ceramiche italiane, distretto quello della ceramica a Modena. Lei opera principalmente da San Clemente in provincia di Rimini, ma Modena, Rimini, il distretto della ceramica è uno dei punti di forza del nostro Made in Italy. Mi racconta come è andata negli Stati Uniti? Perché voi avete aperto uno stabilimento lì di 30.000 metri quadrati che a regime vi porterà circa 30 milioni di euro di fatturato. Quanto avete investito? Abbiamo investito oltre 50 milioni di dollari. E l'iter, se le posso raccontare per sommi capi, che abbiamo dovuto affrontare è il seguente. Noi abbiamo deciso nel dicembre 2012 di fare questo investimento e abbiamo acquisito il terreno. Nell'aprile del 2013 abbiamo iniziato i lavori. Nel dicembre del 2013, quindi 2 mesi fa, abbiamo completato l'installazione dell'immobile e contemporaneamente di 330 container di tecnologia italiana che abbiamo portato in Tennessee, perché la miglior tecnologia è quella italiana. E lunedì, cioè l'altro ieri, abbiamo iniziato a produrre, quindi sono tempi veramente da record, se vogliamo, soprattutto se paragonati ad altre situazioni che abbiamo vissuto in Italia. Ecco, senta, lei ha notato dei controlli fatti più alla Carlona, meno attenti sull'impatto ambientale, meno attenti sulla sicurezza, meno attenti su anche quello che è il rispetto dovuto e assolutamente legittimo delle condizioni di lavoro? Ma questo è un po' un luogo comune, no? Si dice che gli Stati Uniti è un paese che non hanno sottoscritto Kyoto, quindi hanno regole più blande sulle emissioni, non è vero niente. Noi abbiamo dovuto installare esattamente gli stessi impianti di depurazione, depurando tutto, fumi, polveri, riciclando completamente le acque, esattamente come facciamo in Italia, ma abbiamo trovato anche dei limiti sulle emissioni ancora più restrittivi rispetto a quelli che troviamo in Italia. Quindi non è così. Le autorizzazioni sono tantissime, non è che siano poche, sono paragonabili a quelle che abbiamo in Italia, solo che ognuna di queste richiede quando un mese, quando 3 settimane, quando una settimana, per dirne una, il permesso di emettere, che è il permesso più impegnativo, il permesso sulle emissioni in atmosfera, richiede, mi dissero quando feci il contratto sul terreno, 6 mesi massimo. Bene, lo ottenemmo dopo 4 mesi ed è stato il permesso che ha richiesto più tempo, ma tutti gli altri si ragiona in termini, ripeto, di settimane. Il permesso edificatorio, ad esempio la parte architettonica, l'abbiamo presentato una settimana, l'abbiamo ritirato la settimana successiva. Cioè una settimana l'ha presentata e la settimana dopo era già autorizzato? Ma sì. Poi non di rado abbiamo anche verificato che quando ci sono degli aspetti che magari vengono valutati da migliorare, ti rilasciano il permesso con la riserva, a condizione che tu apporti questo tipo di miglioria al tuo progetto. Quindi tutto un sistema fatto perché l'impresa arrivi in tempi rapidi ad andare in produzione, perché c'è la consapevolezza che gli investimenti costano e sono una grande opportunità, no? Quindi lì proprio percepisci che la parte pubblica vuole che tu arrivi rapidamente a produrre, perché più rapidamente farai reddito, più rapidamente pagherai le imposte, più rapidamente i tuoi dipendenti faranno a loro volta, avranno un reddito che sarà imponibile, costruiranno una casa che sarà... Sì, no, mi rendo conto che siano dei ragionamenti marziani, perché da noi invece l'impresa viene sempre vista come qualcuno che danneggia il territorio, che va utilizzata come cassa fiscale, che purtroppo ha questo brutto vizio anche di avere i camion che entrano e escono con i lavoratori. Ma perché la cosa che mi fa impressione è che lei ha avuto addirittura 2 offerte, cioè c'è una gara all'interno degli Stati Uniti tra i vari stati? Sì, negli Stati Uniti i vari stati e all'interno degli stati le varie contee sono in competizione, ossia cercano di attrarre investimenti, avendo la consapevolezza che è richiesta per tutti, e cercano di darti condizioni le migliori che possono, mai dandoti denaro, ma magari dandoti credito d'imposta oppure servizi, tipo noi dallo Stato del Tennessee ad esempio abbiamo ottenuto che ci hanno realizzato una strada statale che conduce al nostro stabilimento, fatta a spese dello Stato, e fra l'altro è stato battezzato del Concaway perché così ci ha proposto lo Stato. Quindi anche ecco, mi dica una cosa però, che la cosa importante che lei ha sottolineato è che il numero di adempimenti burocratici non è minore, cioè i vari, a dimostrazione che la burocrazia esiste anche in America e si occupa più o meno delle stesse cose, impatto ambientale, sì, emissioni emissioni inquinanti, sicurezza sul luogo di lavoro. Quindi non è che ci sono tre controlli contro i nostri 21. Io posso dire che i controlli sono, ad esempio, nella fase realizzativa, sono più frequenti di quello che accade da noi, sono più frequenti. Ossia ci sono, ne dico una, l'impresa che ci faceva l'installazione di impianti, a seguito di un controllo si è verificato che mancava un permesso. Questo era giovedì alle 11. Bene, hanno detto: signori, senza questo permesso voi dovete fermarvi. Il giovedì alle 12 hanno lasciato il cantiere, il venerdì hanno pagato una salata multa, perché avrebbero dovuto avere questo permesso che era ottenibile facilmente, ma comunque erano stati presi, come si può dire, in castagna, e il lunedì successivo hanno ripreso a lavorare, avendo adempiuto alle formalità, alle richieste della... Ecco, no, lo dico perché c'è questa mitologia, anche un po' delle volte a sinistra, nel mondo sindacale, che i paesi dove la burocrazia è snella per aprire un'impresa siano paesi che non vanno a controllare, che dove c'è un laissez faire, modello economie emergenti, con i bambini incatenati e quant'altro. Allora, qui stiamo parlando degli Stati Uniti, i controlli, i permessi e le autorizzazioni burocratiche sono praticamente identiche a quelle che ci sono in Europa e in Italia, come numero. C'è una piccolissima differenza che emerge dal suo racconto: il tempo di risposta della pubblica amministrazione. Cioè non è un problema di levare i permessi. Io proposi tempo fa l'autocertificazione per l'impresa, poi ti vengo a controllare. Ma il problema è che sono i tempi di reazione. Cioè io vi ho appena raccontato delle 3 settimane che un funzionario ha fatto aspettare lo stabilimento Rana di Verona per una variante, no? Perché gli mancava, non poteva prendere l'autobus che nessuno glielo rimborsava, cioè, ma ci rendiamo conto? Qui non è un problema del tanto per arrivare e poi dire ok, lo stabilimento è pronto a partire. Ma è vero che avete ricevuto anche un'assistenza per, diciamo, per adempimento burocratico? Sì, questa è una cosa carina che... Carina, niente da piangere, che carina. Sì, nel senso che io l'agosto del 2012... ricevetti ero in Italia in vacanza, ero in scooter con mia moglie ad Urbino e ricevetti una telefonata dagli Stati Uniti. Allora mi fermo, rispondo, dico chissà cosa abbiamo combinato negli Stati Uniti. Questo quindi era prima che decidessimo di fare il passo, che poi abbiamo deciso a dicembre. E dall'altro capo del telefono mi risponde un signore e dice: sono Bill Haslam, il governatore del Tennessee. E io dico: fai uno scherzo. No, sono Bill Haslam e abbiamo visto il tuo progetto, vogliamo che tu venga da noi, sappiamo che siamo in competizione con la Georgia, però sappi che noi cercheremo con tutte le nostre forze di avere il tuo investimento da noi e ti mettiamo a disposizione una persona la quale sarà la tua interfaccia fra l'azienda e le istituzioni e gli uffici pubblici per tutto l'iter che ti possa occorrere. E in effetti abbiamo avuto questa cosa si è avverata, ossia la comunità locale ci ha messo a disposizione un responsabile di un ente di sviluppo, una sorta di Camera di Commercio nostra, il quale viene interpellato per ogni singola nostra necessità nell'interfacciarci con lo Stato, con la Contea, con la City. E questo è. E poi se posso aggiungere una cosa che secondo me mette a fuoco quali sono le differenze di impostazione, ecco, noi quando in Italia facciamo un'iniziativa di tipo urbanistico per ampliare uno stabilimento, per avere. Ecco, noi siamo chiamati a fare delle compensazioni. Compensazione significa che dobbiamo dare del denaro, oppure in natura, noi abbiamo in qualche caso dovuto regalare il terreno per realizzare la provinciale, piuttosto che dare un contributo per la realizzazione di una rotonda e così via. Queste sono cose che in Italia sono considerate normali, in realtà poi cosa fanno? Sono tutti oneri che vanno ad appesantire le aziende, oneri impropri secondo me, che alla fine si traducono in minore competitività dei nostri prodotti. Negli Stati Uniti è stato l'inverso, cioè abbiamo avuto la parte pubblica che ha detto: cosa posso fare per te? Io ti faccio la strada, io Stato, io con te ti faccio lo sbrancamento, io Stato ti do un credito d'imposta, vieni qui e non andare lì. Quindi abbiamo trovato un ambiente estremamente favorevole per il business. C'è un'impostazione leggermente diversa, l'idea che un'impresa che si insedia in un territorio porti ricchezza, lavoro, occupazione indotto, o invece da un'altra parte che sia una mucca da spremere. Voi tra l'altro lì produrrete 3 milioni di metri quadri di piastrelle di medio formato e creerete 100 nuovi posti di lavoro, a cui si aggiungeranno altri 70. I have a dream that one day on the red hills in Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Il sogno di oggi è facile, mi piacerebbe che anche un imprenditore italiano ricevesse una telefonata come ha ricevuto lei, dicesse: pronto, sono Roberto Maroni, pronto, sono Stefano Caldoro, pronto, sono Nicky Vendola, pronto, sono Luca Zaia, cosa posso fare per lei? Il problema è che temo di conoscere la risposta che darebbe un imprenditore italiano, ma al di là della battuta mi piacerebbe veramente che ogni volta che c'è il tentativo di un imprenditore di creare un stabilimento produttivo, un insediamento produttivo, questo fosse l'atteggiamento. E invece abbiamo una delle burocrazie non più care ma più inefficienti d'Europa e del mondo, che pesa per 800 miliardi complessivamente, ma diciamo per metà, sui nostri conti pubblici. Guiderà lo stabilimento in Tennessee suo figlio Paolo? Sì, mio figlio Paolo è il presidente della nostra consociata americana, sta seguendo l'avviamento di questo, ha seguito tutto l'iter della costruzione, avviamento dell'impianto, quindi lui sarà in prima persona a seguire questo progetto e il suo sviluppo. In bocca al lupo, lei comunque la testa di cuore, ma con la testa dello stabilimenti la mantiene in Italia, vero? Assolutamente sì, questo investimento americano rappresenta non una delocalizzazione, ma rappresenta un modo per andare a presidiare un mercato che altrimenti difficilmente potremmo incrementare. Quindi noi tutta la nostra ricerca e tutte le tipologie più sofisticate le ideiamo e sviluppiamo e fabbrichiamo in Italia, da dove, ripeto, esportiamo il 75% del nostro prodotto. Avete appena ascoltato una puntata di Cronache Marziane, come si fa impresa nell'altro mondo. No, lo dico perché al nuovo governo Letta, al nuovo governo Renzi, al nuovo governo di chi arriverà al governo, forse queste indicazioni possono essere interessanti, ma anche i presidenti delle regioni, anche i sindaci. Tosi, ma sto funzionario comunale che fa aspettare 3 settimane per un po' prendere l'autobus, ma pagateglielo il biglietto, con tutto quello che raccontiamo in questi anni non è il biglietto dell'autobus che significa la cattiva spesa pubblica. In bocca al lupo a tutti gli imprenditori italiani, piccoli, medi e commercianti. Noi adesso andiamo col traffico e poi addio Lugano Bella, no? Arrivederci Lugano Bella, forse, perché c'è la nostra Raffaella Calandra che è riuscita con una quota, non so, quota giornalisti, a entrare in Svizzera oggi a parlare con i frontalieri, e la borsa oggi la faccio io, vi dovrete accontentare. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. I have a dream that one day on the red hills in Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Allora, la borsa rapidamente, ne abbiamo parlato anche in apertura del programma, più 1,30% oggi Milano, tra le migliori, più 0,50 Parigi, più 0,70 Francoforte, invariata Londra, l'America negativa dello 0,40%, però su tutte le borse europee si è fatto sentire positivamente l'effetto Yellen, ossia la neo numero uno della Federal Reserve, che ha fatto capire che manterrà i tassi bassi e la liquidità alta finché la disoccupazione non sarà sotto il 6,5%. Che invidia per la Yellen. Ancora Milano, dicevo, tra i migliori d'Europa. Bene la Popolare Emilia Romagna, di nuovo molto forte, più 5%, ha rassicurato che non vi sarà aumento di capitale. Bene Pirelli, dopo i conti buoni della concorrente Michelin, più 3,80%. Bene Finmeccanica anche, più 1,80% dopo l'annuncio di nuove commesse da parte di alcune controllate, tra cui ATR e Augusta a Singapore, ordine per oltre 1 miliardo. Si sta tenendo infatti a Singapore il Singapore Air Show 2014, quindi la joint venture paritetica tra Eleni Armacchi e EZ, ha siglato accordi per appunto 54 velivoli. Bene anche Fiat, nonostante il downgrading di ieri di Moody's sul debito Fiat, più 1%, tagliato a B1 l'outlook, la prospettiva comunque è stabile. Si sta risolvendo la diatriba sul canale di Panama, c'è un accordo preliminare, ne abbiamo parlato 2 settimane fa, quindi di questo ha beneficiato anche la Salini in pregilo. Continuo con i titoli. Per quello che riguarda i peggiori, invece, c'è qualche realizzo sul Banco Popolare, meno 1%, GTEC meno 1%, A2A meno 0,50. Miglior titolo Biancamano più 18,30, Bialetti più 15,60, Reno De Medici più 11,80, Grandi Viaggi più 10,5, Brioschi più 9,90. Peggior titolo Saras meno 5% e Safe Bag, quasi Megabetti, perdono il 3%. Allora, vi ricordo che alle 18 trasmetteremo in diretta la conferenza stampa del Premier Letta. Io devo purtroppo ridurre lo spazio della nostra Raffaella Calandra, non farò ascoltarlo, facciamo ascoltare domani alcune delle interviste che ha registrato. Raffaella, buonasera. Ciao Sebastiano, buonasera a te. Ecco, tu sei a Lugano o ti hanno già espulso? No, ma sto per lasciare Lugano, ecco. Come i frontalieri. Loro in quei frontalieri fanno rientro in Italia dopo una giornata di lavoro ed esattamente come loro sto per fare rientro. Ecco, dimmi una cosa, poi domani approfondiremo, ripeto, oggi la puntata è un po' particolare, ma che clima hai trovato nei frontalieri ma anche nelle autorità e negli esponenti economici del Canton Ticino? Innanzitutto di incertezza, perché adesso bisognerà vedere come il governo di Berna metterà in pratica l'esito del referendum di domenica, e è un fattore da poco, perché il timore che soprattutto tra le aziende e anche tra i vari rappresentanti del mondo economico ho registrato è quello che si possa scatenare una sorta di braccio di ferro tra i vari cantoni o tra i vari settori, tra i vari tipologie anche di imprese sulle quote della manodopera straniera che potranno utilizzare, che qui è una molto forte, perché tutti su un punto concordano che sulla manodopera straniera, quindi soprattutto sui frontalieri, loro contano e poggiano gran parte della loro economia, quindi molta incertezza, qualche timore anche rispetto alle ripercussioni che l'Unione Europea sta mettendo in atto nei confronti della Svizzera, anche se quello soprattutto sul fronte delle imprese che chiaramente sono un po' disorientate per capire che cosa succederà ora in poi, se davvero questo gelo calato da Bruxelles e Berna avrà delle ripercussioni economiche, mentre per quanto riguarda sia gli stessi frontalieri che le popolazioni, i residenti qui a Lugano, questo invece non sembra essere un motivo di preoccupazione. Mi ha stupito e mi ha anche un po' registrato il fatto che anche tra molti frontalieri ci siano tante persone che hanno condiviso le ragioni di questo referendum, perché evidentemente ritengono che ci sia troppe persone che vengono a lavorare qui da fuori. E fai bene ricordarci, ricordo che oggi vi è stato anche un nuovo scontro con la Svizzera, congelato il negoziato sull'accordo istituzionale da parte della Commissione Europea. Torneremo a parlare domani con Raffaella Calandra, adesso vi lascio al nostro GR e poi alla diretta della conferenza stampa del Premier Enrico Letta. Da Sebastiano Barigioni le auguro di una buona serata, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.